sotto questo sole bello pedalare, sì. Ciao ragazze, questa giornata fantastica estiva qua in Espoo, davvero calda ma bellissima. Perché ci siamo noi, siamo in studio con gli occhiali da sole. Frulliamo il tutto, questo dressing perfetto da mettere sulla nostra insalata estiva. Il dressing, cara mia, il dressing. Allora mi promuova, fa il professore, mi promuova. Sì, sto facendo esami in questo... Lo so. Questi yogurt che talvolta appunto vengono sull'etichetta, c'è scritto zero contenuto di grassi, ma è proprio zero, cioè quindi posso mangiarlo senza ritegno oppure no? Questo senza ritegno, mi immagino Claudio immerso in una vasca da bagno piena di yogurt e che mangia cucchiaiate. La mia guardato ci sta. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Vai dallo charcutier qui alla cantonata, E chi è questo sciacquetier? Il pizzicagnolo, il salumiere. Il casaduglio? E parmagliano? Il bottegaio. Oh. Gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare 1,5 kg di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco. Poi ti fai una bella boatta di pomodoro, Perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. Ti fai dare 1 kg di salsiccia. Vogliamo fare una bella padellata di uova? Assicurati che siano fresche, Tu le agiti. Se sono fresche te le pigli. Se no, desisti. La nostra solita e molto celebre lista della spesa per aprire la puntata di Cuore e Denari di oggi. Siamo sempre in diretta da Cibus e Italia, lo stand di Federalimentare dedicato alle eccellenze dell'agroindustria italiana presso Expo Milano 2015. E proprio di spesa parleremo nella prima parte della puntata per la pagina di Denari. Sotto costo e sotto prezzo, 3x2 o 2x1, promozione a punti o prezzo tondo, coupon e chi più ne ha più ne metta, sono tante le modalità con cui la grande distribuzione ci propone di risparmiare. Ma le conosciamo davvero? Ci aiutano davvero a risparmiare? Le sappiamo individuare e sfruttare? Quali sono le nostre promozioni favorite? Ve lo chiederemo oggi, ce lo chiederemo con il nostro Luciano Mazzone, il nostro coach del risparmio, amministratore delegato di Clicca Promo, pazzi per le offerte. Nella seconda parte della trasmissione invece torneremo a parlare di cibo, ma in una prospettiva diversa, dopo aver dedicato tante puntate al cibo per sottolinearne insieme ai nostri esperti il ruolo fondamentale nel mantenere e promuovere la salute, oggi vogliamo parlare del rapporto che ci lega al cibo. Tutti noi sappiamo che è un rapporto complesso, condizionato da tante variabili, l'età, la situazione, lo stato emotivo, l'ambiente che ci circonda. Provate a rifletterci, se siete stanchi, innamorati o preoccupati, se siete molto felici o sotto pressione, come cambia la vostra dieta? Mangiate di più? Vi si chiude lo stomaco? Vi viene voglia di alcuni alimenti in particolare? Oppure vi salta l'appetito? Oppure vi prendono improvvisi languorini notturni? 800 24 00 24, riflettiamoci insieme, a partire dalle 11.45 ci confronteremo con un esperto. Dai, usciamo a fare la spesa, mandaranci, mele, frutti esotici, scotch al malto, vini ed analcolici. Sai che non posso parlare? Mi accendi questo microfono? L'hai previato? Se la voleva sentire tutta questa canzone, gli piace. Voleva invitarci a ballare anche, lo so. Però è timido e aspetta il secondo giro, vero Michele? Buon gustaio, buon gustaio. Ha ragione, siamo le migliori. Allora, questa canzone ci ricorda un percorso lungo, articolato e di successo che Cuore Denari ha fatto nelle ultime 8 settimane. Lo ricorderete, mercoledì scorso abbiamo concluso le nostre 8 puntate dedicate ad Expo 2015. Mi riferisco a Cuore Denari Denari Expo, il nostro reality con protagonisti, gli ascoltatori che si sono candidati alla partecipazione di un percorso per modificare, seguiti naturalmente da coach professionisti, stile di vita alimentare ed economico. 8 candidati, vi ricorderete: la donna incinta, il sedentario, lo sportivo, la coppia di fidanzati, i genitori con figli, gli over 50, il vegetariano, insomma una partecipazione davvero significativa che non possiamo non ricordare questa settimana che Cuore Denari è ospite di Cibus e Italia, lo stand di Federalimentare dedicato alle eccellenze dell'agroindustria italiana. Però non potevamo archiviare del tutto questo ciclo e quindi oggi, per un piccolo focus in particolare su una serie di temi economici, abbiamo riacciuffato il coach del carrello della spesa. Non so se gli piace questa definizione. Ben ritrovato al nostro Luciano Mazzone, amministratore delegato di Clicca Promo, pazzi per le offerte, ben ritrovato. Che si sta facendo uno spuntino. Perché stamattina però... Ma lui ha seguito il nostri coach. Lei si è un po' innamorato della coppia Tiglio Speciali-Andrea Rivaldone. Diciamo che era efficace, sì. Ha introdotto la proteina a colazione, ormai lo possiamo ricordare in ogni momento. Allora, dopo aver analizzato i prezzi di decine di generi alimentari, guardando in particolare gli alimenti che i nostri partecipanti a reality hanno introdotto nel loro nuovo regime alimentare, oggi nella prima parte andiamo oltre. Andiamo a prendere confidenza con il mondo delle offerte, che è il mondo che meglio conosce Clicca Promo. Sapete che se entrate in un supermercato, ormai in ogni momento dell'anno ci sono delle promozioni e sono di ogni tipo, ma spesso non le comprendiamo fino in fondo. Allora, oggi ve le facciamo conoscere tutte quante nei loro segreti: il sottocosto, il sottoprezzo, 3x2, 2x1, promozione a punti, a prezzo tondo, io questa non l'ho mai vista, i coupon, insomma molte iniziative che però, appunto, come vi dicevo, forse un pochino rischiano di confonderci. Allora, intanto voi diteci quale preferite e quale effettivamente trovate più conveniente. 800 24 00 24, raccontateci come fate la spesa, se andate a caccia di queste offerte, aspettate che arrivino i super sconti oppure non siete tra quelli che si riempiono la dispensa di prodotti solo perché li trovano super scontati, oppure siete proprio quelli che fanno incetta di tutti i prodotti super scontati per poi doverli per forza consumare quando vanno a scadenza. Quali promozioni non vi sono chiare nella modalità in cui, appunto, i centri commerciali, i supermercati le propongono? Oltre al numero verde potete naturalmente scriverci anche al 349-238-6666. Speriamo che oggi questo studio non ci caschi a pezzi. Adesso è Margherita che combina guai. Allora, Mazzone, ricordiamo intanto, visto che vi ho definito Luciano il nostro coach di risparmio, ma anche Clicca Promo pazzi per le offerte, il sito che conosce molto bene il mondo delle offerte dei centri commerciali. Ricordiamo che cosa fate voi, dopodiché andiamo al nostro focus introdotto poco fa per i nostri ascoltatori. Allora, noi offriamo due servizi. Il primo, che appunto si chiama Pazzi per le Offerte, è un servizio di coupon digitali che permette ai consumatori di scegliere fra i coupon disponibili quelli di proprio interesse, comprare i prodotti promozionati e ricevere uno sconto. Il secondo è invece un servizio di recensione delle offerte, e parliamo proprio dei vari sottocosto, 3x2 e così via, offerte dei supermercati. Certo. Che sono peraltro anche tutte quelle offerte che abbiamo monitorato nelle passate settimane quando facevamo il nostro carrello della spesa per i nostri candidati, quello che avrebbero potuto spendere in una settimana a prezzo pieno e poi, utilizzando le offerte, naturalmente quanto avrebbero potuto risparmiare. Iniziamo con una panoramica, classificando un po' le offerte che possiamo trovarci di fronte, no? Iniziamo con quelle magari con le quali abbiamo un po' più confidenza e quelle che ci propongono una maggiore quantità al prezzo di una inferiore, 2x1, 3x2, sono queste le più utilizzate, Mazzone? E per quali tipi di prodotto? Sono una delle modalità tipiche di promozione, anche se negli ultimi anni è leggermente in calo, perché il consumatore italiano ultimamente si sta dimostrando più restio a fare il cosiddetto stock, quindi a comprare grandi quantità in una volta sola. Quindi queste promozioni, che per loro natura portano a comprare 2, 3, 4 pezzi addirittura in alcuni casi dello stesso prodotto, certo, sono meno utilizzate. Allora, in quali casi può convenire scegliere offerte di questo tipo, Mazzone? Rischiamo di comprare qualcosa che non ci serve, di sprecare, magari di non consumare tutto e quindi di fatto di non risparmiare? Secondo lei, quando queste offerte ci sono, il consumatore un po' viene abbagliato e rischi alla fine di spendere un po' di più? Esatto, noi le consigliamo su prodotti di cui si è certi di utilizzare un determinato quantitativo in un arco temporale ragionevole, prodotti sicuramente non deperibili, quindi detersivi, carta igienica, il classico tonno. Il classico tonno, ecco, sempre nei limiti delle proprie quantità, certo, di utilizzo normale. Tra l'altro non abbiamo proprio spiegato esattamente come funziona, anche se chiaramente solamente a denominarli è chiaro, ci viene subito, sì, in mente come funzionino, però 2x1, 3x2, quindi praticamente il 2x1 è acquistiamo due prodotti al prezzo se di ne paga uno solo, esatto. E si risparmia esattamente? Il 50% di fatto. Anche il 4x2 esiste. Esiste anche il 4x2, questo non l'ho, sì, mai visto. Anche il 4x2, il 3x2, l'8x4, il 2x1 qualche facciamo le tabelline. Il 2x1 qualche catena lo chiama 1+1 per enfatizzare proprio il fatto che se ne compra uno e il secondo è gratis, ma è la stessa cosa. Certo. Ci sono poi le raccolte punti, no? Ormai ogni insegna della grande distribuzione propone la sua tessera, la Fidelity Card, chiamiamola in ogni modo, la carta fedeltà. Comunque, in quali modalità vengono proposte dalle catene della grande distribuzione? Come dice appunto il nome, le tessere premiano la fedeltà, quindi vanno bene se siamo comodi a fare la spesa frequentemente sempre nello stesso punto, oppure secondo lei è bene dotarsi di tutte quante le tessere possibili, accumulare laddove ci capiti di fare la spesa? Le ultime statistiche dicono che gli italiani hanno in media 5-6 tessere fedeltà in tasca, quindi la fedeltà alla fine è un po' ridotta proprio da questo fenomeno di accumulo di carte diverse. La loro funzione è duplice: la prima è quella di accumulare punti facendo la spesa, punti che poi al raggiungimento di certe soglie danno diritto a dei premi. Mm-hmm. Quelli più utilizzati ultimamente è convertire i punti, quella dove possibile, in buoni spese, in sconti sulla spesa li direttamente. Li fanno tutti i centri della grande quasi distribuzione. Tutti, ormai è una prassi abbastanza diffusa. La seconda funzionalità è quella di dare accesso a sconti riservati ai possessori della carta fedeltà, quindi alcuni sconti sono solo per chi abbia quella specifica carta, altrimenti gli altri pagano a prezzo pieno. Anche se poi sappiamo, questo è un, come dire, un'osservazione non sempre positiva che fanno molte associazioni dei consumatori, queste tessere, a prescindere dalle offerte che permettono di cogliere, naturalmente tracciano invece molto attentamente le abitudini di consumo dei consumatori e di conseguenza poi magari tempestano di proposte, ma giustamente anche loro fanno iniziative di marketing, no, Mazzone, molto mirate. La tessera in realtà è fondamentale in questo. Esatto, questa è una preoccupazione tipica, quella di sentirsi violati nella propria privacy. Io personalmente ho una visione diversa, nel senso che aiutano le catene. Lascia violare. Io ne ho 50, ogni negozio dove entro non so perché esco con la tessera fedeltà, poi magari non ci capito più. Però è così. Però offrono, grazie ai dati raccolti, le catene sono in grado di offrirci promozioni personalizzate su quello che compro io, che è diverso da quello che compro un altro. Quindi è vero che c'è un monitoraggio dei miei acquisti, ma questo si traduce spesso in vantaggi e non in svantaggi. Certo. Giuseppina da Modena, per esempio, ci scrive proprio a proposito di una tessera che ha di una grande insegna, permette di accumulare ogni punto, 1000 punti, 10 euro su spesa. Punti che non vengono mai azzerati. Non so, magari Giuseppina ci scriva un po' meglio, adesso l'ultimo messaggio arrivato, forse lo deve un pochino scrivere meglio con la tastiera del telefono. A me piacciono gli sconti e basta, non sopporto ricevere a casa i bollini da poi appiccicare sui prodotti del supermercato che si trova regolarmente distante almeno 50 chilometri. Mazzone. Questa è una delle raccomandazioni che facciamo sempre anche noi: occhio alla distanza, di non farsi ingolosire da un'offerta se bisogna poi prendere la macchina e perdere mezza giornata per coglierla. Certo. Le offerte, sempre Giuseppina da Modena segnala evidentemente la differenza delle offerte sul fresco rispetto a quello che non è food. È evidente che, come dicevamo prima, per la scatoletta di tonno detersivo, il 2x1 è un po' più facile da praticare rispetto all'insalata fresca, certo, no? Ma anche per esempio il mondo vegetale della frutta può essere soggetto a offerte di questo tipo, e quali sono quelle più ricorrenti, Mazzone? La frutta è soggetta ai cosiddetti tagli prezzo, quindi uno sconto rispetto al prezzo di partenza. La cosa positiva è che la frutta e la verdura di stagione sono frequentemente quelle più promozionate, quindi è uno dei campi dove noi consigliamo di fare incetta, cioè di stare molto attenti alle offerte, perché si compra la frutta e la verdura più buona e più sana e la si paga anche di meno, quindi è certo, la quadratura perfetta del cerchi. Allora, visto che non riuscivo a capire ed interpretare il messaggio da Milano, che cosa hanno fatto? L'hanno chiamata. Eh certo, l'hanno fatto bene. Giuseppina da Modena, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Scrivendo col telefono, volevo non si preoccupi. Questo, quindi questo. Niente, la io mando dei messaggi, Giuseppina non li capisco, anche a rileggerli non li capisco neppure io. Si figuri io quando li ricevo, guardi. Deborah infatti non mi risponde neanche, mi rimanda quello vuoto e io capisco che... Ci dica tutto, allora Giuseppina, niente, qual è la sua offerta preferita? Guardi, al momento, in questo modo, io solitamente faccio una spesa, se non è proprio giornaliera, ogni 2 giorni, ogni 3 giorni. Quindi al momento decido cosa preparare e cerco di trovare l'offerta nel supermercato, solitamente quello più vicino casa. Sì. E per quanto riguarda i punti, c'è questa possibilità di accumulare punti sulla tessera fedeltà, al raggiungimento di ogni 1000 punti o multipli, quindi 2000, 3000, 4000, sì, si ha la possibilità di avere 10 euro di sconto sulla spesa, sì, immediati. Sì, sì, quindi, ce lo diceva 2000, prima Mazzone. Saranno e lei invece di, invece di prendere il premio, Giuseppina preferisce prendersi lo sconto sulla spesa? Sì, ascolti, io premi non ne prendo più perché ormai abbiamo un po' tutti le case piene, non so, di padelle, pentole, esatto. E poi faccio anche un'altra cosa, ho fatto lo sconto sulla spesa, oppure do i punti, diciamo, per un progetto benefico della catena, ecco, faccio questo. Giuseppina, grazie per aver condiviso con noi le sue abitudini di consumo e utilizzo degli sconti. Mazzone? Solo una raccomandazione, attenzione che le raccolte punti durano al massimo 5 anni, quindi non è vero che non scadono mai, al massimo ogni 5 anni per legge devono essere azzerate e ripartire. Però il supermercato naturalmente ci avvisa. Lo comunica, certo, sì, sì, fa in modo di scaricare tutti i punti accumulati fino a quel momento. Allora, abbiamo capito più o meno come funzionano le tessere di raccolta punti, il 2x1 e il 3x2. Andiamo alle promozioni sotto costo e sotto prezzo. Perché annuisce in questa maniera? Perché il mondo... Più difficile da capire o quello più interessante? No, è quello dove si possono formulare le considerazioni più interessanti. Il sottocosto nell'immaginario degli italiani è la promozione preferita, perché l'idea di pagarla meno del supermercato stesso ovviamente ingolosisce. Quindi il tema è quello, la paga meno del supermercato stesso. Sì, per legge sono regolamentate e il supermercato deve dimostrare che il prezzo a cui lo vende è inferiore rispetto al costo. E come come ce lo dimostrano i comuni mortali? Una documentazione contabile. Un processo, cioè, insomma, regolamentato che però legge noi non abbastanza... vediamo naturalmente davanti allo scaffale. Dobbiamo, del supermercato, esatto, dobbiamo fidarci. E poi le catene, nel caso in cui lo comunicano non correttamente, rischiano delle multe, quindi in genere è corretto quello che viene comunicato. Il sottoprezzo invece è un tema abbastanza dibattuto, io personalmente lo considero abbastanza un inganno verbale, perché non è un sottocosto, è bene precisarlo, non ha nulla a che fare con il sottocosto, non offre le stesse garanzie della legge, è una parola utilizzata dalle catene per orecchiare il sottocosto, fare pensare che sia la stessa cosa quando invece non lo è. Per praticare una sorta di sconto, invogliare un pochino i consumatori, esatto, a mettere l'occhio. Infatti si chiama sottoprezzo e non sottocosto. Esattamente. Se no sarebbe chiamato nello stesso modo. Esattamente. Ma io non ho quindi è un po' il sottocosto, è un modo in cui le aziende fanno delle promozioni ma liberano un po' anche i loro magazzini? No, è appunto una formula promozionale che serve ad attirare i clienti in un periodo dell'anno particolare, tipicamente un po' fiacchi magari, sì, oppure di grandi consumi. Il sottocosto si può fare massimo 3 volte l'anno e tipicamente le catene li fanno in 3 momenti distinti, prima delle grandi feste natalizie, prima delle festività pasquali e subito prima o subito dopo l'estate, quindi in momenti quindi in cui i consumi sono molto alti e quindi se lo possono permettere appunto di mettere, esatto, di negoziare con fornitori, pagare dei prodotti ad un determinato prezzo appunto e loro metterli a loro volta sul mercato a disposizione del consumatore a prezzo inferiore rispetto a quello che l'hanno pagato. Esattamente. Bisognerà far caso. Abbiamo anche una bella formica nel nostro studio. No, la zanzara l'ho ammazzata prima io. No, la formica lasciatela viva, per favore. No, per carità. Mazzone, sta tipicamente dirigendosi verso Luciano Mazzone. Posso continuare la trasmissione oppure dobbiamo monitorare? La trasmissione sugli animali la facciamo domani. Domani, quindi, anzi possiamo già lanciarla. Ottimo. No, stavo pensando per esempio quali tipo di prodotto, abbiamo già dato un'indicazione legata un po' alla stagionalità, in quale momento dell'anno possiamo trovare il sottocosto, no? Questo significa che ci sono prodotti specifici che possono essere oggetto di una promozione di questo tipo o comunque varia a secondo del desiderio del supermercato? Il sottocosto tipicamente si concentra sulle merceologie più comuni, quindi quelle che tutti noi abitualmente acquistiamo, quelle tipiche del carrello della spesa degli italiani, dalla mozzarella, pizza, i surgelati, i detersivi e così via. 800 24 00 24, intanto il numero verde a vostra disposizione per raccontarci come affrontate il mondo delle offerte. Vi confondono quando entrate al supermercato oppure ne siete totalmente insensibili, no? Non vi interessano perché andrate dritti al punto, avete in mente con la vostra lista della spesa quello che dovete comprare, per cui non vi lasciate invogliare da nessun 3x2, 2x1, sottocosto, sottoprezzo, chi più ne ha più ne metta. Bruna ci scrive: compro in offerta solo prodotti che non uso come cibo, quindi bevande o uso esterno. Una forma di risparmio è acquistare vivande senza imballaggi, abbiamo un'ulteriore modalità, come avviene in altre comunità del nord Europa. Il futuro sarà quello, ci scrive questo ascoltatore, e noi che facciamo? Temporeggiamo. In realtà molti hard discount, in particolar modo, proprio per il fatto che non dispongono sugli scaffali del centro commerciale in maniera particolarmente avvincente i prodotti, riescono anche per quel motivo ad abbattere i costi di questi, anche con una forma di promozione, Mazzone. Certo, sì, beh, è una formula di risparmio dei costi e quindi possibilità di offrire il prodotto finale a un prezzo più basso. Penso che però si riferisse all'acquisto di detersivi sfusi. Si sono diffusi in parecchi ipermercati, c'è un dispenser in cui ognuno prende il proprio contenitore o se lo porta da casa e lo riempie e paga solo la quantità presa in quello specifico momento. Il prezzo tondo invece che cos'è? Io questo tu l'hai visto, lo conoscevi? No, assolutamente non ne ho mai neanche sentito parlare. Il prezzo tondo sono quelle offerte tutto a un euro, tutto a due euro, tutto a cinque euro. Allora detta così siamo di legno, parliamone. Sì, la conosco. Questa vi piace, lo chiedo agli ascoltatori all'800 24 00 24, però insomma deve andare ad essere messo in vendita un prodotto che costava poco al di sopra, non è che una cosa che costava prima 5 euro te la trovi a uno. No, esatto, arrotondiamo, esatto, quelli che hanno un prezzo un abbastanza mezzo, vicino. Esatto, e viene arrotondato. Benissimo. A un euro. In tutto questo, qua tondamente, credo che sia arrivato il momento di andare a capire e a sentire che cosa succede sui mercati. Andiamo. A tra poco. Cuore e denari. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, a The Drive. Sconti, offerte, promozioni, sicuramente saranno conteggiati anche gli spaghetti, il pollo, l'insalatina, le patatine, ce lo dirà tra poco Luciano Mazzone. Continuate a chiamarci, oggi si fanno affari, ma trattenete la voglia di andare a fare subito la spesa per mettere in pratica i consigli di Debora e di Luciano Mazzone, perché ci aspetta la seconda parte di Cuore Denari, in cui parleremo di cibo, o meglio del rapporto che ci lega al cibo. Non è sempre facile e naturale come possiamo pensare, perché mangiare, oltre che una funzione biologica, è un comportamento molto complesso che coinvolge la sfera psicologica, comportamentale e sociale. Ne parleremo tra poco, iniziate a prenotare i vostri interventi e a raccontarci il vostro rapporto con il cibo all'800 24 00 24. Tra poco ci raggiungerà il dottor Stefano Erzegovesi, che è specialista in psichiatria e in scienza dell'alimentazione e dirige un centro per i disturbi alimentari all'ospedale San Raffaele Turro di Milano, e quindi vi aspetto. $530 di sconto, è il 98% della spesa. L'undicesimo comandamento è non pagare il prezzo pieno. Ho i buoni per queste. Dici che ci bastano le 40 scatole che abbiamo a casa? Sono pronte a tutto pur di risparmiare. Scoprirete le loro strategie segrete per ridurre a zero uno scontrino da $1,000. Vivrete attimi di terrore alla cassa e farete la spesa come non avete mai sognato di farla. Siete pronti per la sfida? A me piace tantissimo questo reality americano, pazzi per la spesa, vedi questi americani che hanno delle dispense pazzesche, penso con delle forniture per due generazioni. Il carrello della spesa lo riempiono all'inverosimile, poi si presentano alla cassa con questi coupon per mesi tagliati dai giornali. Ma Luciano Mazzone, qua da noi questa pratica non è diffusa in questa modalità, anzi diciamo che non è no, decisamente per niente diffusa. Gli unici coupon forse per fare la spesa sono quelli che distribuite voi. No, poco, no, anche le insegne della grande distribuzione fanno i loro blocchettini ogni tanto, sì, sì, quindi ci si può c'è. Presentare alla cassa, non in questa assurda modalità americana. Non con la modalità dei coupon sconto cumulabili fra di loro, esatto, che è l'origine, anzi, della trasmissione. Qua se ne guardano bene dall'accumulare, esatto, qualunque tipo di sconto, ne usi uno e al massimo è su un'unica categoria merce. Esattamente. Allora, intanto sulle modalità per risparmiare e le tantissime tipologie di offerte che possiamo trovare al supermercato, abbiamo adesso tre ascoltatori che vogliono raccontarci un po' che cosa combinano. Bene, bene, e bene. E quali preferiscono soprattutto. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione. Cominciamo con Loris dalla provincia di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Volevo solo portare la mia esperienza, io ho tre bambini, con la moglie quando andiamo a fare la spesa guardiamo effettivamente i prezzi sotto costo, e l'ultima volta per esempio 2 mesi fa abbiamo acquistato 120 euro di tonno, solo tonno, e già avevamo fatto questa cosa 2 anni fa e per 2 anni abbiamo controllato la scadenza, ovviamente la marca che vogliamo noi, controlliamo il prezzo. L'importante è, come diceva il vostro esperto, non cadere nella trappola di comprare altri prodotti. Noi ma lei, Loris, peraltro, siccome io ho capito bene stamattina come funziona il sottocosto, lei, visto che va mirato a quel tipo di offerta, sapeva che funzionava in questa maniera che ci ha spiegato Luciano Mazzone? Sì, per quanto riguarda il sottocosto, sì, lo sapevo, per esperienza mia. E così vale anche per i detersivi. Simpatica è stata una volta una signora che si è visto col carrello, con i tre bambini, il carrello pieno solo di detersivo per la lavastoviglie, si è chiesto, ma voi avete una catena d'albergo? No, no, signora, semplicemente abbiamo una famiglia, per 2 anni non sappiamo che andiamo avanti. Bravi, abbiamo una squadretta bene. Di calcio. Avete anche una dispensa abbastanza ampia. Diciamo di sì, che abbiamo una cantina dove possiamo mettere in qualsiasi buco che ci stia, noi mettiamo roba. Senta, Loris, ma quel tonno a 120 euro a prezzo pieno quanto sarebbe costato, per capire appunto doppio, quanto... Esattamente il doppio. È la marca, chiaro, una delle migliori marche, non faccio il nome ovviamente, che vogliamo noi perché ci piace quello. L'abbiamo trovata a 5,80 euro, vado a memoria, quando normalmente costa intorno agli 11-12 euro, quindi certo, conveniva effettivamente. Abbiamo risparmiato il 50% calato in 2 anni, perché in 2 anni faremo fuori questa, se ci va bene, sì, perché sì, con quello che mangiano i bambini magari in 1 anno va via tutto, quindi così. Luciano Mazzone alza i pollici, perché le piace molto, le piace Loris? Sì, beh, mi piace questo tipo di attenzione gli al dobbiamo prezzo. Mandare un po' di coupon di clicca promo però adesso. Basta registrarsi a Pazzi per le Offerte, lì a tutti. Ottimo. L'unica cosa che volevo dire è attenzione alla ciclicità. Noi pensiamo che l'offerta di oggi sia imperdibile, irrinunciabile, quindi facciamo scorta magari per magari dopo in una realtà, settimana ne troviamo un'altra. Dopo una settimana no, ma dopo un tot di mesi generalmente tendono a ripetersi, non sempre ma spesso è così. Stamattina i nostri ascoltatori sono stati un po' come il diesel, sono partiti con un po' di ritardo, ma la parola magica è stata sottocosto, perché adesso anche Rosanna voleva dire la sua su questa modalità di praticare appunto delle promozioni da parte della grande distribuzione. Rosanna, perché la incuriosisce? Buongiorno, ma mi incuriosisce perché non capisco dove è l'interesse del supermercato a vendere una cosa a un prezzo più basso di quanto l'abbia pagata. Perché certamente ha dei margini su altri prodotti che compensano ampiamente quel sottocosto là, poi in qualche maniera bisognerà anche fidelizzare la clientela. È un po' uno specchietto anche per le allodole, certo, tanto che uno compra il sottocosto, poi guardi e nello scaffale vicino E poi la prossima volta ci ritorni, perché insomma, poi non voglio entrare nel tecnico, ma è una definizione di legge che non considera poi tutte degli altri benefici che la catena ha dai produttori stessi ad aver comprato quelle quantità, quindi magari vendere in sottocosto poi permette di raggiungere dei premi fine anno, degli sconti ulteriori che non entrano in quel conteggio. Il supermercato non ci perde. Esatto, il supermercato alla fine non ci perde. Possiamo stare tranquilli. No, no, guardi che proprio amica non perdono cara un bel niente. Con la crisi so che hanno ridotto molto i loro margini, ma certamente sul lastrico non c'è finito nessuno, almeno delle grandissime insegne. Sul piccolo negozietto qua è un altro mondo. Mazzone, noi abbiamo visto quale interesse ha suscitato in particolar modo questa modalità del sottocosto, no? Ma voi riuscite con Clicca Promo a tracciare le abitudini dei consumatori per capire quale in assoluto è la promozione favorita? Beh sì, il sottocosto è quella in genere preferita, anche se quelle più frequenti sono appunto i cosiddetti tagli prezzo. con una percentuale di sconto dichiarata 30, 40, 50% oppure non dichiarata. Queste sono certo. le più frequenti, quindi alla fine sono quelle che inevitabilmente vengono anche più fruite. Sul sottocosto l'unica precisazione che ci tengo a fare è che non è detto che sia il prezzo più basso che una persona riesca a trovare su un determinato prodotto. Spesso lo sconto 50% o il 2x1 riescono ad andare a un prezzo addirittura inferiore a quello del sottocosto, quindi sempre molta attenzione al prezzo al chilo, al prezzo al litro dei prodotti per noi. Lo so, infatti, ma chi mai ha tempo di fare questo calcolo? Lo facciamo noi per loro. Senti un po', ma possiamo fare un reality a settembre? No, facciamo un carrello della spesa, che già Luciano Mazzone ci guarda con un nightmare in faccia. No, facciamo un carrello della spesa, lo decidiamo noi e vediamo chi ce lo realizza con il costo più basso. Mi piace. Ti è piaciuto? Molto. Magari ce lo inventiamo una settimana, poi con quello che abbiamo comperato cuciniamo. Ecco. E poi il nostro nutrizionista ci dirà se abbiamo scelto bene. Quanti oppure... chili prendiamo o perdiamo con quel carrello della spesa. Dai che si riparte. Intanto dateci le suggerimenti, idee, infatti. Spunti, perché noi facciamo come le offerte. Ogni 2 o 3 mesi il cuore denari parte con delle iniziative nuove. Anche noi siamo nuove. Un po' un 2x1, perché due conduttrici con una trasmissione sola. Ti è piaciuta questa? Siamo convenienti. E con questa, no, adesso andiamo verso la chiusura di questo blocco, ma Luciano Mazzone, il couponing, sì. appunto non conosciuto in Italia o comunque non praticato in Italia nella modalità esasperata americana, voi come fate a mettere a disposizione dei consumatori che si rivolgono al vostro sito i coupon? Che tipo di accordi prendete con la grande distribuzione e... Ci dica un po' come funziona. Allora, noi prendiamo accordi direttamente con le aziende produttrici, quindi non con la grande distribuzione, ma con le varie marche che vediamo sugli scaffali. E mettiamo a disposizione del nostro pubblico di iscritti dei coupon fruibili da applicazione ci mobile. Ci fa per un esempio, pomodoro? Sì, non so, il gelato, visto che siamo in estate, comprando una confezione si ottengono 50 centesimi di sconto, comprandone 3, 2 euro. Chiarissimo, la grande distribuzione non fa problemi per il fatto che il couponing è stato scaricato dal vostro sito? No, è un sistema che è indipendente dalle catene e che funziona in un rapporto diretto fra noi e i nostri utenti. Chiaro. Quindi si può andare in qualunque supermercato, l'importante è comprare quello specifico prodotto, poi dove lo compro non conta. Ha avuto successo questa modalità con i vostri utenti, sono stati contenti. L'ultima velocissima telefonata la prendiamo, non so, quale ti piace di più, Giuliano o Bruna? Andiamo a Giuliano, che invece non ama moltissimo le offerte. Velocissimo Giuliano, deve essere telegrafico. Grazie del privilegio di avermi scelto a Bruna e mi dispiace per Bruna. Ecco, guardi, poi la ma Bruna manderemo un libro, guardi, facciamo così. che peccato. Annaggia anche a lei, dai. Dai, grazie. Mi veloce, veloce. Sì, sono scettico. Sono scettico su alcuni tipi di proposte, non tanto con il buono sullo sconto dei 20, 30, 50 centesimi. Ma sui 1x1, i 2x1, i 3x2. Io ho fatto le mie ricerche, le mie prove personali e invito i consumatori a farle. Cioè, dove c'è la targhettina del 3x2, sollevate dietro e guardate la vecchia etichetta del vecchio prezzo, perché io ho notato che spesso per poter fare il 3x2 e il 2x1 il prezzo viene aumentato a un prezzo standard. Come avviene, Giuliano, purtroppo devo salutarlo, un po' come avviene durante gli sconti, no? Quelli che adesso partiranno nei prossimi giorni, saldi per l'abbigliamento, esattamente. Qualche negoziante, adesso mi si scateneranno addosso, come succede sempre, ma qualcuno un pochino aumenta il prezzo dell'origine per far sembrare poi lo sconto praticato un po' più consistente. Mazzone, l'ultima raccomandazione per i nostri ascoltatori, qual è la promozione alla quale prestare un particolare attenzione? La più comoda è sicuramente quella dei coupon. La più conveniente è lo sconto 50% o in quella da cui invece stare un pochino alla larga? Beh, i sottoprezzo vanno guardati con attenzione proprio perché all'origine c'è un po' questo inganno verbale, come dicevo durante gli interventi precedenti. In barba a quello che ha detto Loris, che si compra 120 euro di tonno, non vede l'ora che arrivi il sottoprezzo. Non so, sottocosto va bene, sottoprezzo è una dicitura a cui quindi era il attenzione. Sottoprezzo quello a cui fare attenzione, esatto. Benissimo, allora niente, da domani si va al supermercato con un occhio diverso nei confronti delle offerte, quindi mi raccomando, voi intanto scriveteci se volete anche la vostra esperienza e noi la condivideremo con Clicca Promo e poi da settembre un nuovo reality. Allora, intanto andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e torniamo subito dopo insieme per la seconda parte di Cuore Denari. Luciano. Grazie Luciano Mazzone. Grazie. Adesso la lasciamo in pace per l'estate, ma eventualmente ci ritroviamo a settembre. A presto. Va bene. Arrivederci. Cuore e Denari. Pronto? Io sono la camera 35. Sì, vorrei qualche cosa da mangiare. Da? Com'è? Beh, com'è, maniere. Ma non roba pesante, roba leggera. Qualche panino, sì, qualche acciugo, un po' di burro, spaghetti, carne, pesce, bene, bene. Sì, carne, pesce e osso buco. Benone, sono ghiotto. Oh, ma senza osso, solo il buco, eh? E no, perché l'osso non lo digerisco. Frutta, formaggio, caffè e antipasto. Io per antipasto piglio pasta e fagioli. E un po' di bicarbonato, tutto questo per quattro, eh? Ma mi raccomando, subito. Siamo quello che mangiamo, ma per dire la verità siamo anche come mangiamo. Il rapporto che abbiamo con il cibo racconta molto di noi, risente di emozione, state d'animo, è influenzato anche dalle abitudini, naturalmente, dalle scelte di vita. Dobbiamo prenderne, come si dice, consapevolezza. Oggi ci aiuta un grande esperto, il dottor Stefano Erzegovesi, medico, specialista in psichiatria e in scienze dell'alimentazione, che dirige il centro per i disturbi alimentari all'ospedale San Raffaele Turro. Dottore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dottore Zegovesi, il cibo è nutrimento, ma direi non solo per le nostre cellule, perché attraverso il cibo noi soddisfiamo tante esigenze, perché il cibo ci gratifica, ci consola, ci premia, riattiva memorie, legami, insomma il cibo ci lega, lo sappiamo bene, un rapporto molto complesso. Lo sappiamo, ma spesso lo dimentichiamo e per certi versi, dottore, per fortuna, perché se passassimo la vita a chiederci perché sto mangiando ora o qual è il motivo per cui ho voglia di dolce e non di frutta, ci complicheremo molto la vita. Ma è indubbio che un po' di consapevolezza aiuta, perché credo sia un ingrediente che nelle giuste dosi non deve mai mancare, perché ci permette di, per dire, gustare meglio la vita. Lei che cosa ne pensa? Certamente il cibo è il nostro primo regolatore emotivo e quindi tutto quello che ha a che fare con le nostre emozioni sicuramente ha a che fare con il poter mangiare tanto o poco di certi cibi. Sicuramente è vero che essere consapevoli di quello che si mangia è importantissimo, cioè tutto quello che è ad oggi la grande quantità di informazioni su un'alimentazione sana e consapevole è sicuramente una cosa giusta e fondamentale. Vero è, ma questo lo vedo come dire dal lato della persona che si occupa di disturbi alimentari, vero è che pensare troppo al cibo, in questo momento noi siamo decisamente bombardati da messaggi sul cibo, è importante che non diventi un'ossessione per il cibo e quindi poi a quel punto ci sono persone che dedicano le migliori energie della loro mente a pensare cosa mangiare e cosa non mangiare, questo chiaramente rischia di diventare un'ossessione e non è mai una cosa salutare per noi. Oggi con il suo aiuto vogliamo parlare di disturbi alimentari, ma vogliamo che lei ci aiuti a capire che rapporto ci lega al cibo nel quotidiano. Aggiungiamo anche altri due spunti riguardo al cibo. Il cibo, lo sappiamo, è moda e anche identità. Certo. Quindi un strumento di consolazione, il cibo crea appartenenza, penso ad esempio a dei gruppi, no? Ai crudisti, ai vegani. Dottore Erzegovesi, possiamo aggiungere questi due dettagli perché nella valutazione del rapporto che abbiamo col cibo sicuramente queste due variabili dobbiamo tenerle in considerazione. Io partirei da due aspetti proprio che fanno un po' da premessa a qualsiasi discorso sia di sana alimentazione sia di disturbi alimentari. Sì. Da un lato noi nasciamo venendo da una condizione di totale protezione, che è la condizione quando siamo nell'utero della nostra mamma, veniamo alla luce, questo vuol dire esposti al freddo, ai rumori, alla luce, a una serie di altre cose. In questa condizione così difficile da un punto di vista dell'adattamento all'ambiente, che è a tutti gli effetti una risposta di stress, abbiamo l'allattamento e quindi in qualche modo dall'inizio della nostra vita il fatto di poter avere un nutrimento che non è solo fonte di sopravvivenza ma è anche fonte di consolazione, perché mentre ci nutriamo, pensiamo all'atto dell'allattamento, c'è contatto, c'è calore, c'è comunicazione e quindi sicuramente il punto da cui dobbiamo partire è che se il cibo è uno strumento di consolazione diventa a tutti gli effetti anche uno strumento di comunicazione. E quindi va benissimo parlare di cibo, fare le trasmissioni sul cibo, le ricette e tutto il resto, però prima cosa ricordiamoci che il cibo è importante che non diventi, proprio in quanto strumento di consolazione, non diventi la consolazione per dei nostri bisogni emotivi, soprattutto ecco, bisogni emotivi di contatto. Vogliamo riflettere oggi con lei, dottor Erzegovesi, ciascuno di noi può provare a fare un'autovalutazione del rapporto che ha col cibo, perché può servire anche l'esplorazione di questa dimensione per aiutarci in qualche modo a capire un pochino di più di noi stessi. Naturalmente, se lei ci dà una mano, come si dice, i fondamentali, questo ci aiuta. Allora, quali sono le domande che possiamo proporre ai nostri ascoltatori? Poi ciascuno proverà a rispondere, naturalmente a contattare il nostro numero verde 800 24 00 24 per discuterne insieme al dottor Erzegovesi. Dottore. Sì, ma io direi sicuramente a proposito di inflazionare o meno il cibo, quanto tempo dedichiamo alla preparazione di un pasto, quindi quanto tempo dedichiamo alla spesa e quanto tempo dedichiamo allo stare in cucina a prepararsi da mangiare. Sì. Un'altra domanda sicuramente è preferisce o è abituato a cucinarsi il pasto da sé o preferisce consumare un pasto preparato da altri, quindi il ristorante, la mensa, ma anche i precucinati, i surgelati della grande distribuzione. Importantissimo per me, anche dal punto di vista poi della consapevolezza del cibo, quanto tempo si dedica al pasto. Noi siamo sempre di corsa, siamo sempre tra mille cose da fare, ma il tempo del pasto è sicuramente una domanda importante per capire com'è la nostra posizione su questo. E poi l'alimentazione, cosiddetta alimentazione emotiva, cioè ci capita di mangiare alimenti di solito molto appaganti, quindi dolci industriali, patatine o altro, quando non abbiamo fame, ma quando magari ci sentiamo preoccupati, stressati o altro. Annoiati, soprattutto il vuoto e la noia ugualmente sono molto collegati. Dottor Erzegovesi, possiamo aggiungere, mi dica lei, a questa batteria di domande che naturalmente faremo mettere anche sulla nostra pagina per continuare un pochino a riflettere, anche se mangiamo delle ore un po' strane oppure se manteniamo gli orari, quelli canonici, ci sono persone che si alzano per mandare a mangiare la notte, questo fa la differenza, è un indicatore? È molto importante. Gli orari intesi sia come orari anomali, tipicamente il cosiddetto night eating, cioè le persone che mangiano o prima di andare a letto o subito dopo essere andate a letto si alzano e mangiano, ma anche persone che hanno perso la ritmicità, e per cui il fatto di avere tre pasti al giorno, che può sembrare una convenzione sociale, in realtà ha una regola fisiologica molto importante, che il nostro corpo tollera dei digiuni che non sono troppo prolungati, per cui magari persone che mangiano all'orario che capita piuttosto che in situazioni molto disperse con orari, sicuramente è una buona domanda da poter fare per avere un'idea poi di com'è il livello di consapevolezza alimentare. Noi adesso diamo la nostra linea al nostro GR, ricordatevi il nostro numero verde 800 24 00 24. Ah no, abbiamo ancora ben 3 minuti, male. Guarda. Io pensavo volessi dare la linea a Diego da Genova. Sì, che adesso arriviamo, che però volevo specificare bene le domande perché vogliamo confrontarci su questo. Ricordatevi, quanto tempo dedicate alla preparazione di un pasto, se preferite cucinare il pasto da solo o preferite consumare pasti preparati da altri? Quanto tempo dedicate al pasto e se mangiate a degli orari strani o se vi capita di mangiare alimenti di solito particolarmente appaganti quando non avete fame, siete annoiati o siete sotto pressione. Andiamo subito a Diego che ci chiama da Genova, buongiorno. Buongiorno e grazie per avermi richiamato. In realtà io vi chiamo perché ho due maschietti, uno di 6 anni e mezzo e uno di 2 anni e mezzo, che sono due ottime forchette, quindi quando sento le mamme che dicono io non riesco a far mangiare i miei bambini, io probabilmente insieme a mia moglie abbiamo il problema opposto. Ora, con questo come me quando ero piccola, Diego, praticamente. Ma come anche il papà, perché anch'io da piccola ero un'ottima forchetta, infatti... Mia si mamma... vede che a casa vostra si mangia bene anche. Si mangia bene, questo sì. E c'è una cultura anche del cibo, nel senso si cerca di farli partecipare anche, questo compatibilmente ovviamente con i tempi, non è che tutti i giorni, perché durante la settimana, questi anni è impossibile, però sabato e la domenica si cerca si di destinare. Io quello Diego, che ho notato, la sua domanda? La mia domanda è questa, io quello che ho notato soprattutto nel grande, È la velocità e il gusto con cui, anche se le cose sembrano in contrasto, perché se uno per gustare dovrebbe avere, dovrebbe dedicare più tempo, lui rispetto ai suoi compagni che osiamo invitare, eccetera, a parte che mangia di tutto, ma è anche più veloce nel mangiare. Non è che mangia di più, cioè è portato a mangiare di più perché ovviamente mentre gli altri sono ancora lì che giocano con la pennetta al pomodoro, lui ha già spazzolato il piatto. Sì. Però quello che volevo sapere era, e forse in parte avete già dato una risposta, nel senso che comunque al cibo sono legate anche altre emozioni, però saperlo magari, forse il ragazzo cerca o il bambino cerca di sopperire a qualcosa che a noi non è così evidente. Lui però non mangia lontano dai pasti, non mangia paciughi, è regolare. Paciughi è proprio un termine genovese, ligure, vero, il paciugo. Di questo parliamo perché adesso è arrivata veramente l'ora di dare... Il segnale orario vi è offerto da... Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. Cuore e denari. Fantozzi, che aveva promesso alla Pina di perdere con lo sci almeno 5 kg, decise per il dimagrimento alternativo. Si fece ricoverare nella modernissima clinica locale per seguire la famosa dieta del professor Birkenmeier dell'Università di Jena. Benvenuto nella sua nuova dimora. Grazie, professor Birken. Birkenmeier. Mi scusi, professor Birkenmeier, dato che non ho ancora fatto colazione, in cosa consiste la dieta qui? Niente. 20 giorni di digiuno assoluto. Niente mangiare, niente bere. Ma come? Niente mangiare. Estate, tempo di diete per arrivare in forma alla prova costume, è un classico, nonostante tutte le informazioni, le raccomandazioni di medici e nutrizionisti e i buoni propositi, ci si ricade ogni anno. I risultati non sempre pagano, spesso i chili persi con fatica ma rapidamente si recuperano con gli interessi, ma c'è di più, il rischio è, come dire, di finire intrappolati in dinamiche rischiose. Il pericolo aumenta se le diete sono iniziate in giovane età. Oggi parliamo del rapporto con il nostro cibo e ne parliamo insieme al dottor Stefano Erzegovesi, specialista in psichiatria e in scienze dell'alimentazione, direttore del Centro per i Disturbi Alimentari all'Ospedale San Raffaele Turro di Milano. Dottor Erzegovesi, tra poco parleremo delle diete fai da te che possono essere non solo un rischio per la salute ma anche compromettere il rapporto con il nostro cibo, ma prima vogliamo rispondere al nostro ascoltatore, ci ha chiamato da Genova per raccontarci questa caratteristica del suo bambino, 6 anni, che gusta con una buona forchetta, ma gusta il cibo molto rapidamente, finisce sempre il piatto prima che dei suoi compagni che magari giocherellano con il maccherone. Il fratellino, infatti. Dottor Erzegovesi, che cosa le dice questa storia? Primissima cosa in questi casi, consideriamo che i bambini, diversamente dagli adulti, sono soggetti in accrescimento, quindi ci può stare che in certe fasi abbiano una voracità che è una voracità legata proprio a un istinto, diciamo, di costruzione del corpo. In questi casi la prima cosa che io consiglio di fare è di verificare con il pediatra la curva di crescita del bambino. Esistono delle curve che mettono in relazione il peso e l'altezza a seconda delle varie età dei bambini, e quindi se il bambino all'interno di questa curva di crescita mostra comunque una già attuale presenza di sovrappeso, a maggior ragione di obesità, sicuramente è utile domandarsi che cosa c'è dietro quel tipo di alimentazione, e sicuramente ci sono dei motivi che hanno a che fare con motivi di tipo emozionale, come dicevamo prima. Certo. Se la curva di crescita è nella norma, normalmente appunto intorno al 50° percentile, che è, diciamo, una misura di quella che è la distanza dalla media di una persona come peso e altezza, direi non fare nulla salvo cercare di coinvolgerlo in alimenti che richiedono per loro natura di essere masticati di più. Capisce che se si mangia un gelato piuttosto che un prodotto raffinato in due bocconi, si mangia molto più lentamente, magari un prodotto integrale, un prodotto in chicchi, un prodotto che viene masticato più a lungo. Dottor Erzegovesi, infatti nella batteria di domande che lei ha proposto ai nostri ascoltatori per aiutarli a valutare il rapporto con il cibo, ha messo quanto tempo dedica al consumo di un pasto. La voracità, spostiamoci dall'età infantile all'età adolescenziale e adulta, è un indicatore importante? È importantissimo, anche perché tristemente ad oggi l'industria alimentare lavora per creare alimenti che siano mangiabili molto rapidamente. e quindi questo diciamo che non ci aiuta, nel senso che un alimento che per sua consistenza, per sua morbidezza è un alimento che potrebbe essere mangiato in due bocconi, chiaramente è un alimento che non ci aiuta. Però al di là di questo io sono convinto che il problema della voracità vada al di là di quelle che sono le proposte, diciamo, commerciali di cibo. La voracità è normalmente legata al fatto, dicevamo prima, che dedicando dei ritmi alimentari non costanti e quindi diciamo dedicando poco a quella che è la cura di noi stessi attraverso il cibo, spesso la voracità è quella cosa per cui a me capita, ma senza bisogno di andare in studio a vedere i pazienti, mi capita parlandone con amici, colleghi o altro che mi dicono: ma sì, io mangio davanti al computer, io mangio in situazioni proprio così, mentre sono in macchina da un posto all'altro. Chiaramente quelli sono tutti comportamenti che facilitano la voracità. 800 24 00 24, superate la nostra barriera rosa, raccontateci che cosa caratterizza il rapporto che avete con il cibo. Stanno arrivando molti messaggi al 349 238 6666. Dato che io oggi sono accecata, chiederei a Deborah di leggere anche i messaggi, perché non sto vedendo nulla. Uno studio illuminato di immenso, direi, veramente pieno di sole. Allora, abbiamo fatto la prima domanda, è piaciuta moltissimo: quanto tempo dedica alla preparazione di un pasto? E chiaramente le risposte più articolate sono arrivate da chi dedica molto tempo all'elaborazione dei pasti quotidiani. Anna Maria: 2 ore ogni mattina, quasi solo cose cucinate da me sono quelle che consuma, solo il pesce è già pronto surgelato. Da quando siamo in pensione i nostri pasti durano anche 1 ora perché ci piace mangiare ad agio. Poi Bruna: preparare i miei pranzi o cene con sottofondo di musica è puro relax, amo ciò che preparo e gusto con immenso piacere e tempo. I miei morti della fame li combatto con le barrette di quinoa proteica. Ancora, esatto, ho preso la brutta abitudine di mangiare davanti alla televisione, ci scrive Maria. Mi date un suggerimento per smettere? Credo che sia un problema per tante persone. Dottor Arzegovesi, sì, prima di affrontare il problema diete fai da te, soprattutto le diete delle giovanissime, andare a così fare un focus sui disturbi alimentari, sui segnali che devono insospettire magari i genitori di ragazze, per lo più anche ragazzi in adolescenza, quale di questi messaggi ha catturato la sua attenzione e su quali vuole magari dare un'indicazione, un suggerimento? Ma i primi due direi che sono messaggi che fanno ben sperare nel fatto che ci sono persone che comunque dedicano un'attenzione importante a quello che è il momento dei loro pasti. Il mangiare davanti alla televisione è una cosa invece secondo me cruciale da dare come segnale per tutti, perché fa parte di quel modo di mangiare che dicevamo poco fa, significa mangiare mentre sto facendo qualcos'altro, per cui davanti alla televisione, ma può essere davanti al tablet, davanti al computer e in altre situazioni. Il pasto per sua natura è qualcosa che richiede un livello di attenzione a ciò che ci accade dentro, la cosiddetta consapevolezza enterocettiva, cioè la consapevolezza di ciò che c'è nella nostra pancia, che meno noi abbiamo distrazioni esterne, meglio è sia per la digestione, ma soprattutto per la sazietà. Se io mangio facendo qualcos'altro, la consapevolezza di ciò che accade dentro è distratta da ciò che accade fuori e quindi non mi sento sazio. Io quello che consiglio sempre, sia che uno mangi troppo, sia che uno mangi troppo poco, al momento dei pasti si può discutere, litigare, guardare la televisione, fare tutto, ma al momento dei pasti non bisogna fare nessuna di queste cose, e per cui deve essere dedicato proprio all'interno di noi stessi. Devo dire che a casa mia è una regola ferrea da quando noi spegniamo tutto, televisione, eccetera, e mangiamo. È fondamentale. Anche quindi quando siamo da soli non facciamoci tenere compagnia dalla televisione, la tentazione è grande. Devo farmi una chiacchierata con mai farlo, perché sicuramente mangeremo di più e ci sentiremo meno sazi, ma per un meccanismo, la nostra possibilità di percepire e interpretare stimoli ha dei limiti, proprio come filtri sensoriali, quindi se riceviamo altri stimoli, tutti quelli che sono gli stimoli interni arrivano meno e arrivano soprattutto dopo un tempo più lungo, ma nel frattempo abbiamo mangiato di più. 800 24 00 24, raccontateci il vostro rapporto con il cibo, provate a rispondere alla batteria di domande proposte dal dottor Arzegovesi. Ma arriviamo al problema diete fai da te, dottor Arzegovesi. Noi lo ripetiamo spesso: a cuore denari possono essere un rischio per la nostra salute, ma anche compromettere il rapporto con il nostro cibo, con conseguenze molto pericolose, perché possono avvinghiarci, intrappolarci in delle dimensioni che possono diventare molto pericolose, specialmente per le giovanissime. Dottore Zegovesi, sì, lei ne parla nel suo blog. Sì, nel senso che io citavo uno studio dell'Università della Florida che proprio mostrava quanto più noi cominciamo una dieta fai te da piccoli, per cui tipicamente nell'adolescenza, più gli effetti negativi sono peggiori, dove per effetti negativi intendiamo contemporaneamente degli effetti sia fisici, per cui il fatto poi di avere un rischio maggiore di sovrappeso, obesità, sia anche psicofisici, per cui il rischio di disturbo alimentare, di comportamenti di abbuffata, di vomito o di abuso di alcol, per cui un rischio psichico sull'abuso di sostanze. E questo secondo me è un dato cruciale. Il vero enorme problema della dieta fai da te ad oggi è che esiste una, alla fine, se noi interpretiamo in maniera un pochino più scientifica quelle che sono le mille diete che in questo momento troviamo sulla stampa, in televisione, su internet, fondamentalmente la dieta di oggi dice mangia tante proteine, mangia un pochino di verdura, dimagrirai in qualche modo. Che la cosiddetta dieta iperproteica, che poi può avere mille nomi, di mille specialisti, di mille marchi commerciali, ma sempre quella è. La dieta iperproteica cosa fa? Ci mette nella condizione di avere di fare una sorta di digiuno controllato, per cui in qualche modo il nostro corpo va incontro alla cosiddetta chetosi, cioè come l'acetone quando siamo da piccolini. E quindi chiaramente ci sentiamo infastiditi dal cibo, ma perché siamo in qualche modo intossicati dall'acetone, e di conseguenza cambiamo il nostro modo di mangiare. La chetosi ha un effetto eccezionalmente buono sul breve periodo, per cui settimane, i primi 2-3 mesi normalmente ci sono perdite di peso importanti, quindi la gente dice caspita, funziona, cioè funziona. Non so io se faccio una dieta sbagliata, perché questa cosa la vedo, funziona. Il problema è che se c'è una cosa che crea più di qualunque altra poi il ritorno dello stesso peso successivo, il cosiddetto effetto io-io, per cui perdo peso, poi lo riprendo, poi lo riperdo, ma poi ne riprendo di più, è la dieta iperproteica. Quindi se io devo dare un consiglio spassionato a tutti gli ascoltatori, non fate dieta iperproteica, perché vuol dire andrete benissimo per un mese, due, ma poi vi ritroverete con un peso che sarà assolutamente uguale nel giro dei 6-12 mesi successivi, ma quello che secondo me è il problema ancora più grosso, vi ritroverete con un peso per cui la vostra massa magra, cioè quella buona, cioè muscoli, ossa, organi vitali, più passa il tempo di questo yo-yo, più la massa magra diminuisce e invece la massa grassa aumenta. Prende il sopravvento. Sulla bilancia noi vedremo sempre 70 kg, ma in realtà sono 70 kg sempre più grassi. Non di qualità, come si dice, più di massa grassa che di massa magra. Ma dottore Arzegovesi, il rischio per le ragazze che iniziano a fare delle diete, una preoccupazione che hanno molti genitori, è che poi la ragazza non riesca più a smettere, cioè continua la dieta quasi presa dall'ossessione, no? Di vedersi sempre più magra, sempre più somigliante a quelle che sono, no, i modelli che la società di oggi impone. È un rischio? Questo è il rischio. Diciamo che il 90% dei disturbi alimentari, intesi come soprattutto anoressia e bulimia, sono partono da delle diete? Che cominciano dalla dieta, sì. In qualche modo la dieta è un fattore di innesco, perché il fatto di iniziare a controllare quello che mangio e probabilmente, ma questo ovviamente capita su alcune ragazze predisposte, verificare che quello che mangio, se riesco a rinunciare a quello che mangio, questo mi dà una sensazione di grande forza, di grande capacità di farcela, diciamo. Questa cosa può di suo sviluppare poi un meccanismo che è non riesco più a fermarmi, per cui è vero che riesco a mangiare salutista, ma dal salutista diventa ipersalutista, dall'ipersalutista diventa inizio a togliere intere categorie di cibi, per cui basta carboidrati, basta grassi, cose di questo tipo. 800 24, certo. 0024, andiamo ai nostri ascoltatori. Abbiamo subito la linea Nicoletta dalla provincia di Cremona, che salutiamo, benvenuta. Salve. Niente, io sono la mamma di una ragazza di 18 anni. Sì. Nicoletta, non si commuova. Forza. Mi scusi. No, ma lo so, perché quando si parla, quando abbiamo un problema per, no, nei confronti, in casa con i nostri figli, le mamme fanno molta fatica. Però siamo Nicoletta, siamo tutti amici qua, e quindi c'è il dottor Zegovesi che ci aiuta. Allora, quindi è una ragazza, immagino giovane, ha disturbi alimentari, forse questo voleva segnalarci. Secondo me sì. Lei praticamente salta il pasto tutte le sere, mangia solo al mezzogiorno, salta la colazione. insomma, Nicoletta ha intercettato, vado io, va l'altra Nico, se lei mi permette, Nicoletta, che così non mi cioè riusciamo a raccontare al dottor Erzegovesi, che sicuramente avrà già capito la situazione e la domanda che Nicoletta vuole farle, dottor Erzegovesi, rispondendo così alle tante perplessità che molti genitori hanno nell'osservare un comportamento alimentare che è decisamente particolare delle loro ragazze o dei loro ragazzi, anche se questi disturbi alimentari sono prevalentemente declinati al femminile. Sì, nel 90%. Dottor Erzegovesi, come fa una mamma, quali sono i segnali e che cosa si può fare per aiutare una ragazza che inizia ad avere disturbi alimentari? No, la prima cosa proprio dal lato del genitore, ma capisco la commozione della signora, è un genitore che si ritrova un figlio, una figlia che rifiuta il cibo, è qualcosa che sviluppa normalmente un senso di enorme impotenza, per cui si ha la sensazione di, te lo dico con le buone, con le cattive in tutti i modi, ma mi sembra sempre che comunque non segui quello che ti dico. Questo chiaramente è una cosa che muove da un punto di vista emotivo grandissimi conflitti, grandissime tensioni. Detto questo, per cui il fatto di sentirsi così, riconoscerlo come qualcosa che non è di per sé anomalo ma fa parte di un quadro di questo tipo, il disturbo alimentare, dicevamo, comincia sempre con una modalità che di solito è molto sfumata, per cui appunto si comincia a togliere una cosa, poi se ne toglie un'altra, per poi arrivare, come è il caso che raccontava la signora, invece di restrizioni alimentari molto nette, perché saltare completamente un pasto piuttosto che ridurre moltissimo un altro significa una restrizione alimentare molto netta. In questi casi, prima cosa, c'è o non c'è il ciclo mestruale, e quindi la presenza o meno del ciclo mestruale è un indicatore di quanto è grave la perdita di peso e di quanto può dare conseguenze immediate la perdita di peso. Già in una situazione di questo tipo, però, al di là dell'aspettare che ci sia o non ci sia il ciclo, io consiglierei da subito un contatto con quello che è un servizio specialistico per il disturbo alimentare, perché un pasto su tre mi dà l'idea di qualcosa che è già avviata come meccanismo. E quindi ci si può rivolgere, dottor Erzegovesi, abbiamo un minuto di tempo, concretamente al medico di famiglia che ci indirizza ad un centro, ma se la ragazza non vuole... Primo punto, medico di famiglia, che vuol dire qualcuno che dovrebbe essere la persona, il medico che ci conosce di più anche come storia. Sì. Nel momento in cui la persona non vuole, mettiamoci tranquilli, il 90% delle ragazze che viene da me in prima visita arriva e dice: mi ci hanno portato, cosa vuoi dalla mia vita? Quindi non è normale, anzi è la regola, che la persona all'inizio di un disturbo anoressico non voglia. Però questo non toglie che un genitore in quella situazione deve esercitare, diciamo, la sua potestà genitoriale, e soprattutto non deve essere da solo, quindi deve essere la coppia dei genitori che deve dare un messaggio molto forte, molto compatto di bisogno di cura, e a quel punto attraverso il medico di base, attraverso tutti i servizi di ascolto che ci possono essere nelle scuole o nei servizi territoriali, rivolgersi a un servizio per i disturbi alimentari che tratti il disturbo alimentare in un'ottica cosiddetta multidisciplinare, quindi dove ci sono più specialisti insieme che lavorano su questa cosa. Dottor Erzegovesi, la ringraziamo, torneremo a parlare di questo e naturalmente se avete necessità, bisogno, scriveteci, Cuore Denari, sono temi molto delicati e privati, scriveteci, salutiamo Emilia dalla provincia di Latina. Invitiamo Emilia a scriverci, una cameriera appunto che ha qualche difficoltà ad organizzare bene la sua giornata alimentare. E ciao, le nostre amiche. Ciao Eclettiche, vi ascoltiamo sempre, ci mandate un saluto, baci dalle ragazze Bartabacchi, rendezvous a Portico di Caserta, un bacio. Smack. A domani.